quando i bambini erano bambini, ma non più tanto, quando non erano ancora ragazzi e forse erano ragazzini, e quando ancora ci si poteva andare senza l'incubo della prenotazione del posto o dell'assegnazione tramite computer, li portavo volentieri al cinema. Nella felice epoca in cui nella mia beata ingenuità potevo ritenere che le storie che mi venivano narrate per la prima volta, che i film non fossero ripetizioni di altri film, prima insomma della tetra certezza di quanti remake a testa inesorabilmente ci spettino, il cinema costituiva per me un momento di formazione, nella misura in cui riuscivo a mettere alla prova quegli strumenti critici pezzo per pezzo andavo affinando. Portarci i ragazzi allora al cinema era un po' come una filogenesi ricapitolante, un'ontogenesi, mentre dà una spinterella impaziente ad altre ontogenesi che senza quel cinema e senza quel cine accompagnatore se la sarebbero presa con più calma. Mi riscimentavo e al contempo cercavo di condividere con i miei figli l'apparato analitico che ne risultava. È in questa prospettiva che ho sempre cercato di selezionare i film con estrema attenzione. La filmografia del regista innanzitutto, poi qualche informazione dalle recensioni giornalistiche, la ponderazione delle comunicazioni pubblicitarie, la definizione del genere, l'eventuale testo di riferimento, un testo letterario che di riferimento alla narrazione cinematografica, diciamo che erano tutti elementi che prendevo in considerazione per scegliere il film da vedere. Da un cinema poi non è facile uscire, e se si esce se ne deve render conto e si deve risultare molto convincenti. Nell'impostare una relazione con l'altro, bambino incluso, a maggior ragione, mi faccio scrupolo di non usare mai argomenti che trascendano il mio interlocutore. Devo farmi capire, devo concedergli tutti i diritti di un interlocutore, non posso mai cercare di fondare una mia opinione su qualcosa che trascenda la sua comprensione. E li portavo a vedere film che mi promettessero spunti critici, sulla vita quotidiana, sulle cose più vicine che ci riguardano da vicino, sui comportamenti di gente molto riconoscibile, sulle piccole contraddizioni che indirettamente ci fornissero indizi chiari di quelle più grandi. I film di Moretti, per esempio, o quelli di Mamet, quelli di Romero, quelli di Costa Gavras o di Lumet, perché no? E anche quelli di Carlo Verdone. Mi ricordo ancora oggi quando abbiamo portato la nostra amata bambina, non più tanto bambina, a vedere Viaggi di nozze. Era il 1995. Fra una risata e l'altra circolava fra noi un'aria d'intesa, di scelte in comune, gli egoismi, la cultura della subordinazione, gli orrori domestici e l'irresponsabilità politica di certe figure umane disegnate così bene dal regista erano individuate da noi all'unisono. Lo schermo non era uno solo e non stava solo là davanti, ma lo schermo eravamo noi uno per l'altro. Si guardava e ci si guardava, si capiva e ci si capiva, si rideva, sì, ma si sapeva, e si sapeva insieme. E quella che era stata una conquista di lotta per i genitori era, nel balenio di una contraddizione colta per tale, era una conquista per i figli. Quando Verdone, per esempio, per criticare l'uso e l'abuso dei telefoni cellulari, no, iniziava con quell'annoiato "Indo sei?" io non so farlo, era irresistibile però, rivendicava coscienza della tecnologia, si scagliava contro il potere del mercato nel processo di formazione culturale dell'individuo, reclamava a gran voce ideali più consoni ad una sana convivenza civile. Indossei era un punto fermo, no? Uno stadio di consapevolezza ormai raggiunto, sul quale costruire, insieme o no, comunque costruire nuovi spunti critici per cambiare il mondo. Si usciva dal cinema, si usciva dal cinema più forti di prima, con mille cose da dirsi, quella scena da ridiscutere fotogramma per fotogramma, quella battuta da risuddividere nelle sue molteplici sfumature, tutto grasso che colava. Mi sono imbattuto in una fastidiosa coincidenza. Nei giorni scorsi un amico mi porta una di quelle fotocopie che immagino nell'era di internet costituisca il substrato fisico della principale attività mentale nei luoghi in cui viene esercitato un lavoro asfissiante e ripetitivo. Riproduce una videata che rappresenta un cervello umano molto approssimativo con freccette e nomi segnati sulle sue diverse aree. Il titolo, in grande tuttavia, in grande, già chiarisce che di vera e propria anatomofisiologia poi non si tratta. Il titolo è Il cervello della donna. Le freccette riportano alla luce un patrimonio sterminato delle peggiori nefandezze della cultura maschilista. La grande area centrale sarebbe quella del mal di testa, un'altra grande area rappresenterebbe l'impulso allo shopping, poi ci sarebbe, cospicua anch'essa, cospicua, quella che governa gli anniversari e i compleanni, e minuscola, minuscola, minuscola, minuscola la ghiandola dell'iniziativa sessuale. Il giochino è fin troppo chiaro e non meriterebbe che l'analizzi ulteriormente. Non lo meriterebbe se ieri sera, durante lo show del sabato sera su Rai 1, Giobbe Covatta non avesse intrattenuto un pubblico plaudente ed entusiasta sul medesimo tema. Dopo aver omaggiato la pari opportunità, si fa per dire, mostrando la cartografia del cervello maschile, quello tutto occupato dal sesso ovviamente, ecco che è passato a quello femminile e con pochissime variazioni ha ripetuto paro paro quanto avevo già letto due giorni prima in fotocopia. Il modello di donna che è interessata soltanto a scarpe, vestiti, diamanti, pietre preziose, altri oggetti luccicanti, che parla troppo, il modello di donna che prevede che la donna viva di pettegolezzi e di fotoromanzi al secolo telenovelas, che dica sempre te l'avevo detto io e che giustifichi quel che è visto dal maschio in termini di controcomportamento adducendo sempre un mal di testa, che non sappia guidare l'automobile, che non abbia iniziativa sessuale, è un modello che credevo tramontato per sempre dall'epoca dei Pitigrilli, del Marco Aurelio, degli altri analgesici sociali di stampo autoritario e parafascista. Negli anni 70 del secolo scorso qualcosa è pur stato fatto per togliere di mezzo queste porcate invereconde e per mettere assieme alla belle meglio, mettere assieme una qualche forma di risarcimento per la donna offesa e vilipesa. Inutilmente, a quanto pare, inutilmente è stato fatto. Perché per quanto possa sembrare incredibile, oggi si smercia come fonte di divertimento, il che è peggio, un prodotto culturale ritirato dal mercato da tempo, sia perché è dannoso alla salute sociale dei consumatori, sia, si sperava, per mancanza degli stessi. C'era, non c'era più. c'è ancora. È sabato sera, i ragazzi, che ormai sono qualcosa più che ragazzi, sabato sera escono e si cercano, si danno appuntamenti, ci vediamo lì a quell'ora, poi cambiano idea, poi cambiano programma, ci vediamo là a un'ora diversa, oppure ti aspettiamo qui, l'aspettano qui, da un momento all'altro arriverà. Poi si va dove? Ma si va, poi vediamo, ma non arriva. Come mai non arriva? Beh, vabbè, la sentiamo, dalle uno squillo, aspetta, prendi questo. E la nostra ragazza, e la nostra adorata ragazza, prende il telefono cellulare, compone il numero, se lo porta all'orecchio, sta attesa un attimo, e poi le si illumina lo sguardo. Indo sei? Lo so che cita, lo sappiamo tutti che cita, e sappiamo tutti che una citazione è spesso un atto di dotta critica, ma qui, in questo momento, la situazione è precisamente la stessa del film di Verdone. È sabato sera e c'è il problema di riconoscere i propri movimenti, ricostruirli, ricoordinarli in ragione di movimenti altrui, e non c'è altro. Indo sei, 8 anni dopo, ne ha percepito tutta la virulenza critica, l'ha metabolizzata, e come una ragione insonne che pur tuttavia si trova fra i piedi qualcosa di imbarazzante, l'ha riprodotta. C'era, non c'era più, c'è ancora. Lo so che non è la stessa, è una parodia, ma sì, la sua funzione è comunque quella di giustificare un comportamento intriso di inutilità, di vanità e altri vuoti a perdere della propria memoria storica. Non ho più garanzia alcuna che questa sia meno settica dell'altra.